Disco Della Senza Manna. Lunedì 6 aprile, sono circa le 16:30 di questo pomeriggio assolato e noi al chiuso, guardando fuori, vi raccontiamo un nuovo disco della settimana. Madonna, che tristezza, Mauro, però mi fa un momento un po' triste, noi che guardiamo fuori il sole, però fortunatamente la musica ci fa sempre compagnia e questi giorni ne abbiamo ascoltata tantissima, perché tra i vari dischi che sono arrivati da ascoltare e da scegliere appunto per poi creare il disco della settimana, ce n'erano diversi di interessanti, ma a me ha colpito una cosa, cioè la lingua di quest'album, perché noi spesso presentiamo degli artisti italiani e che cantano in italiano, a parte in alcuni casi come la scorsa settimana in cui abbiamo presentato un artista che cantava in italiano, in francese, in inglese, insomma. Però loro, quando li abbiamo ascoltati, non mi sono assolutamente sembrati un gruppo italiano. Sono una band italiana, abruzzese, dall'anima british. C'è un po' questo trade union, va bene trade union, sì, tra l'Abruzzo e Londra, di una band che si chiama Matinée, con un nome anche francofono un po', quindi anche loro sono un bel mix, e hanno fatto uscire il 27 marzo il loro secondo album, 6 anni di distanza da quello di Esordio, hanno dato alla luce Event Horizon. Dato alla luce mi fa molto parto, però va bene. Tra l'altro oggi parliamo di sole, di mattinee, di luce, cioè così, nuovi inizi. Comunque, questo album appunto, Event Horizon, è uscito il 27 marzo, a noi è piaciuto molto e abbiamo ascoltato i diversi pezzi. Quello che avete appena ascoltato è un brano che in realtà ha anticipato di molto Event Horizon, si chiama Empty ed è uscito nel 2016. Questo singolo è rimasto a fluttuare nell'aereo finché non è stato creato appunto Event Horizon ed è stato inserito come seconda traccia di quest'album. Questa band appunto ha un'anima british, come dicevamo, poi abbiamo scoperto che vivono comunque in Inghilterra, quindi hanno assorbito probabilmente un pochino dell'atmosfera musicale e culturale british appunto, e hanno creato l'album assieme a Chris Geddes, che fa parte di Belle Sebastian, ed è stato, quest'album è stato prodotto da Tony Dogan, che insomma ha prodotto degli artisti del calibro di Mogwai, Libertines, insomma non personcine così che passavano per strada. Sì, ecco, non l'ultimo arrivato, insomma. L'album è uscito per l'etichetta Neon Tetra Records e distribuito in Italia da Audio Globe. Le tracce sono 10, tra le quali però c'è una ripetizione. Infatti la prima traccia, che si chiama Summer Sun, è in radio edit, quindi un'edizione più corta, perché poi Summer Sun in extended version chiude l'album, è la traccia numero 10, e dura più di 7 minuti. Quindi noi abbiamo pensato che la prossima traccia che vi faremo ascoltare è proprio questa, Summer Sun, però nella versione breve. Speriamo che vi piaccia, e questo è un altro dei due brani che hanno anticipato l'uscita di Event Horizon. Allora parliamo un po' di questo Summer Sun, di questo sole estivo, no? È uscito a febbraio, quindi un pochino di tempo fa, ed ha anticipato l'uscita appunto dell'album e viene descritto un po' così: l'amore ai tempi della Brexit, perché c'è anche questo, perché oltre a tutto il marasma che succede c'è anche la Brexit in Inghilterra, ricordiamolo. La canzone è stata creata insieme a Chris Geddes dei Belle Sebastian, che è ormai un membro aggiunto del gruppo, e prodotta appunto, dicevamo, da Tony Dugan. Summer Sun rappresenta al meglio la transizione musicale della band abruzzese, che si divide un po' tra Gran Bretagna e Italia. Comunque c'è un felice passaggio iniziale che avete sentito prima tra chitarra, basso, batteria e anche un po' di synth pop. Infatti secondo me nell'ascolto di questo brano si sentono tante influenze, ma anche tante influenze del passato, un po' di musica degli anni 80, anche un po' di elettronica in qualche modo. È un brano che appunto è ritmato, è un po' catchy. Catchy. È proprio anche un brano che trasmette un po' di spensieratezza, che in questo momento secondo me ci può sempre essere utile. Anche se la spensieratezza iniziale diventa man mano pesante come dei macigni. Sì, però oggi Mauro sei negativo. No, cioè, non è ogni che sono negativo, che... insomma, sì. La canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi, insomma, c'ha un po' questa oscillazione tra la spensieratezza, la leggerezza, un po' di pesantezza che però rimane sempre abbastanza leggera. Ok, ma questo perché? Perché era una anche super cazzolissima. Era una super cazzola, decisamente. Ma questo perché? Perché c'è un video che vi invitiamo a cercare, a guardare, ed è quello che vuole raccontare un evento che per chi vive in Gran Bretagna è stato sicuramente abbastanza importante, da alcuni vissuto in maniera positiva, per altri in realtà è stato un momento molto duro. Infatti, soprattutto per chi da europeo vive nel Regno Unito, quindi chi viene da altri paesi ma vive lì. Ed è questo proprio che vuole raccontare questo video, un video che è stato ideato e diretto da Tom Child e da Ben Wood, e raduna una serie di volti noti appunto del mondo del cinema e anche delle serie britanniche. Infatti c'è un personaggio di The Crowd, ma anche The Windsors, qualcuno che viene da Air the Musicals, ma tutta una serie di volti che fanno proprio parte della cultura anche pop della Gran Bretagna. Il protagonista del video è una giovane coppia innamorata che si ritrova di punto in bianco, senza saperlo, senza rendersene conto, a dover affrontare una separazione forzata. La ragazza non può rimanere nel paese, né in Inghilterra, viene arrestata e costretta ad andarsene. Quindi una quotidianità molto felice viene interrotta senza una ragione sensata. È un amore che rischia di spezzarsi per cause di forza maggiore, in questo caso politico, per una società incattivita e a tratti schizofrenica. Però la cosa positiva è che ci può anche essere utile in questo periodo di negatività è che c'è un lieto fine. Diciamo che nel lieto fine, nel finale di questo video, c'è un barlume di speranza, c'è la possibilità di trovare una ragionevolezza e un'umanità che nelle istituzioni che sono rappresentate dalla polizia, nel video e come siamo abbastanza, sembra mancare da troppo tempo. Quindi noi vi invitiamo appunto a vedere il video, anche se ve l'abbiamo malamente spoilerato sostanzialmente, e ascoltare però questa canzone anche, che è in un certo senso anche positiva. Passiamo quindi a questo punto a un'altra canzone. Passiamo appunto a farvi ascoltare un altro brano tratto da Event Horizon, secondo album dei Matinée, e continuiamo con Come With Me. Di rientro da questo brano vi racconteremo un po' chi è questa band. Yeah. Quindi Come With Me era il brano che abbiamo appena ascoltato, e adesso tu vieni con me a scoprire un po' chi sono cotesti matinee di cui stiamo charlando così in questa giornata d'aprile. E di cui stiamo presentando l'album che si chiama Event Horizon, che è uscito il 27 marzo, quindi qualche giorno fa, ma è disponibile, si può ascoltare su YouTube e acquistare anche. Vi invitiamo a farlo perché insomma promuoviamo le vendite degli album. Ma detto questo, ricordiamo intanto che il brano che abbiamo appena ascoltato è il brano numero 5 di quest'album, che è composto da 10 canzoni e inizia e finisce con il singolo, insomma, che vi abbiamo fatto ascoltare come secondo brano di questo disco della settimana. Ma appunto, scopriamo chi sono questi matinee. Allora, i matinee sono una band, come dicevamo, nata sulle rive dell'Adriatico in Abruzzo ed emigrata con successo in Inghilterra. La band è composta da Luigi Tiberio alla voce, chitarra e synth, Alfredo Ioannone alla voce al basso, Giuseppe Cantoli alla chitarra e Alessio Palizzi alla batteria. Questi quattro ragazzi sono stati per lungo tempo nell'East London, si sono conosciuti, hanno lavorato lì, hanno suonato, però a un certo punto due dei suoi componenti sono rientrati in patria e ora sono in Italia sostanzialmente. Hanno deciso di prendere il nome Matinee da un brano, anzi di una band che poi è diventata loro amica. Infatti il gruppo ha deciso di prendere il nome da The Dark Side of the Matinee, che è un brano dei Franz Ferdinand, estratto dal loro primo disco. Tra l'altro i Franz Ferdinand hanno conosciuto i Matinee perché i ragazzi italiani andavano in giro per la Gran Bretagna a fare le cover proprio della band scozzese, e in questo modo si sono anche conosciuti, e i Franz Ferdinand li hanno eletti come loro tribute band italiana ufficiale, per poi chiamarli anche ad aprire alcuni loro live in Italia. Però a parte questo inizio, diciamo questo esordio in cui si sono dedicati alle cover, diciamo, sono arrivati anche i loro primi brani inediti ed originali. Infatti nel 2014 è uscito il primo disco di inediti, che si chiama These Days, prodotto da Tony Dogan, che era comunque, come abbiamo detto, il produttore anche di Event Horizon, che ha lavorato con tantissime band come i Mogwai, Libertines, Glass Vegas, insomma band di grande importanza. In un perfetto stile Britpop, l'Inghilterra ha accolto a braccia aperte i Matinee col supporto di media come NME, QXFM ed Amazing Radio. La band ha aperto i concerti di The Lumineers, Daughter, Mystery Jets, Futurettes, Carl Barat dei Libertines, Pete and the Pirates, Razorlight, We Are Scientists, Catfish and the Bottlemen, British Sea Power, e a Londra ha suonato in tutti i club più importanti per le giovani band come il 100 Club, la Dead Disco Night di Alan McGee, che è anche fondatore della Creation Records e scopritore degli Oasis. Insomma, hanno infilato i loro tentacoli un po' in giro per la Gran Bretagna in Matinee. Ok, puoi prendere fiato perché hai fatto una lista lunghissima. Però cosa è successo? Un anno dall'uscita del loro primo disco, nel 2015, Matinee sono anche stati nominati dagli Amazing Radio Award nella categoria Best International Act, e hanno quindi suonato poi alle celebri Station Session, e insomma comunque anche qui hanno partecipato a degli eventi molto importanti in Inghilterra, tra cui tra l'altro anche molti festival non solo in Inghilterra ma anche in Europa, come Edou Fest di Edimburgo, il Savvy Fest a Barrowlands Barroom, al Butte Fest e al Wimbledon Calling, insomma un po' di roba. Comunque anche la carriera italiana è stata ricca di soddisfazioni, hanno fatto numerosi concerti in vari club della nostra penisola. I clubs. Non so in italiano come si dicono i club, i locali più importanti. Vabbè, ma loro sono English, British, quindi li chiamano club anche i locali. Comunque hanno fatto un sacco di concerti anche in Italia, mettiamola così, sono passati molto nelle radio, nei media nazionali e internazionali. Nell'anno successivo, quindi 2014 è uscito il primo album, 2015 hanno partecipato e sono stati nominati per diversi eventi molto importanti in Inghilterra. Nel 2016 però esce Empty, che è il primo brano che vi abbiamo fatto ascoltare. Nel febbraio poi 2020 invece esce Summer Sun, il secondo brano che abbiamo ascoltato, che hanno un po' anticipato l'uscita di Event Horizon. C'è stata effettivamente una lunga preparazione per quest'album e finalmente il 27 marzo ci hanno regalato queste 10 tracce da ascoltare. A questo punto io sceglierei un altro brano per concludere questo disco della settimana, che speriamo vi sia assolutamente piaciuto. Vi ricordiamo che il brano è disponibile e si può ascoltare su Spotify e puoi anche acquistare. La canzone che vi facciamo ascoltare per chiudere questa nostra presentazione è dedicata a ieri, che si intitola Give Up on Sunday, dargliela su la domenica praticamente. Ma sì, tanto ormai. Ma sì, a preparare lasagne e robe del genere. Questo era il nostro disco della settimana per questa settimana. Speriamo che la vostra settimana per non dire settimana, sia gioviale e gioiosa, e lasciamo stare. Fai tu. Quindi, con il brano numero 8, Give Up on Sunday, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona settimana e speriamo che questo, diciamo, sentore londinese vi abbia permesso un po' di viaggiare, diciamo, e di evadere un po' dalla quotidianità italiana. Ci risentiamo la prossima settimana con un nuovo disco della settimana e a questo punto vi lasciamo appunto con l'ultimo brano. She lost control. I was so dead, the crowd was marching in. Everything, everything.